Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai nostri amici a Mottola che ci seguono in streaming. Per me è davvero una gioia essere qui insieme a mia moglie e a mia sorella in questa occasione. E qui davvero mi sento a casa per tanti motivi, non solo perché quando la famiglia di Dio si riunisce in ogni parte del mondo siamo accomunati dal nostro unico papà, dal nostro unico padre, il nostro re e signore. Ma mi sento a casa perché qui ho tanti ricordi col pastore Mirko e con gran parte del vostro team pastorale, Vito, Sara, senza poi parlare dei pastori Pinuccio e Sofia. Insomma, siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tante avventure in tanti anni e per me quindi questa è una grande gioia rivedere diversi di voi. E vi ringrazio, vi ringraziamo anzi, per averci sostenuto in questo anno con la vostra preghiera. È da qualche mese che Dio mi sta dando grazia di visitare qualche realtà, qualche chiesa, e per me è importante poter ringraziare personalmente. L'ho già fatto in tanti modi, ma quando si incontrano poi i fratelli che hanno piegato le ginocchia per te, hanno pregato e dedicato del tempo, io mi sento onorato di poterle guardare negli occhi e ringraziarli con tutto il cuore. Sapete, quando qualcuno prega per noi è un onore, perché quella persona non solo sta empatizzando con te, sta sviluppando sensibilità con te, sta piangendo con te in quel momento, ma quella persona ha preso del tempo, un tempo prezioso che ha dedicato per te. Quindi io vi ringrazio, mi sento onorato di potervi ringraziare personalmente per le vostre preghiere. Grazie, Pastore Mirko, per la preghiera costante, per l'affetto che ho ricevuto, abbiamo ricevuto e ci ha inondati anche dalla vostra chiesa, dalla mia chiesa qui a Modugno. Quindi grazie di cuore davvero per il vostro sostegno. Io questa mattina ho in cuore di condividere un pensiero, ma prima di questo vorrei un po' partire da quello che è stato questo ultimo anno, molto particolare per me e mia moglie, anche per testimoniare a quanti sono presenti qui che probabilmente non mi conoscono, non conoscono la mia storia. Così brevemente raccontarvi un po' perché è da lì che voglio partire e poi fare una riflessione insieme questa mattina. Vabbè, partiamo un pochettino dalle origini. Io ho dato la mia vita al Signore all'età di 12 anni, era circa il 92, in un bellissimo campeggio per adolescenti a Ruvo di Puglia. Già frequentavo la chiesa a Trani, mia mamma mi portava da bambino, ma a 12 anni ho fatto una scelta. Io desideravo con tutto il cuore poter fare qualcosa in chiesa, non sapevo cosa fare, ma insomma mi lanciavo a fare le cose più disparate. Fino a quando un giorno, quasi casualmente, ho trovato una chitarra, nel senso che non so come mai questa chitarra era nella mia stanza. Ho iniziato a strimpellarla, vedevo in questo pezzo di legno un'opportunità per servire la mia chiesa. Insomma, ho iniziato a imparare un pochettino da solo, era il 94, non c'era ancora internet, non c'erano modi abbastanza rapidi per poter imparare o attingere informazioni. Sono scappato alla prima edicola vicino casa per comprare un libro e imparare i primi accordi. Insomma, il pastore Enzo mi ha subito ascoltato nella sua casa. Io ero spesso a casa sua perché suo figlio Marco è stato sempre un mio caro amico, e mi ha invitato subito a suonare ai culti di preghiera del martedì. Di solito suonava lui e voleva una mano. Insomma, io mi sentivo particolarmente onorato, ma non particolarmente pronto perché suonavo da pochissimo. Io l'avevo avvisato, però lui, veramente un uomo di fede, molta fede, un uomo di fede, mi ha invitato a suonare in ogni caso. Insomma, fratelli e sorelle, da lì è iniziato un percorso meraviglioso di servizio che mi ha portato poi chiaramente a sviluppare, a prendere sul serio questo impegno. Ho studiato, mi sono applicato molto e dedicato molto alla chiesa, ho iniziato a scrivere dei canti che condividevamo in chiesa. Insomma, è stato un momento speciale di servizio, di connessione con la mia realtà, con la mia chiesa. E da lì, anno dopo anno, quindi dal 94 in poi, il Signore aggiungeva sempre di più un tassello a questa visione che prendeva sempre più spazio, sempre più chiarezza nella mia vita. Ho ho iniziato a fare qualche esperienza anche all'estero, lavorando per alcuni musicisti, artisti cristiani, e ad un certo punto, ricordo addirittura nel 96, un primissimo mio concerto a Ruvo di Puglia, condividendo alcuni brani che Dio mi aveva dato grazia di scrivere. Ricordo con molto piacere, un ricordo vivido nella mia mente, di Gianluca Ronchi, non so se è qui in mezzo a noi, c'è Gianluca? Gianluca, aveva un look molto diverso. Nel 96 era molto più rocker Gianluca. E ricordo che lui insieme a un gruppo di Modugno presentarono dei canti e noi, io insieme ad altri due fratelli, tra cui anche Marco, presentavamo dei canti. Insomma, dei momenti speciali che io ricordo con tanto affetto perché hanno costituito la base di quello che Dio avrebbe fatto nella mia vita. Insomma, per fare la storia lunga breve, ho iniziato a lavorare ad un mio primo disco nel 2002 insieme a dei cari amici professionisti che mi hanno guidato in questo percorso, per me era un percorso nuovo. E da lì Dio mi ha dato grazia di viaggiare molto e condividere attraverso il linguaggio della musica quello che Dio metteva nel mio cuore e a guidare chiaramente anche la Chiesa in momenti di lode, adorazione. E negli anni questo è diventato così intenso, questo percorso, che è diventata la mia occupazione principale, quindi mi sono dedicato pienamente a questo ed è diventato in qualche modo anche la mia professione. Ho avuto grazia da parte di Dio di viaggiare anche all'estero, di produrre diversi album, fino all'anno scorso, che è accaduto qualcosa di molto particolare nella mia vita che mai mi sarei immaginato di vivere. Il 4 di maggio del 2018 io e mia moglie eravamo davanti a un primario in un ospedale in Nord Italia, dove ora vivo da 10 anni con Esther, vicino Varese. Questo primario doveva darci l'esito di alcuni esami che avevo fatto ad aprile. Avevo notato una piccola macchiolina rossa sul bordo sinistro della mia lingua. Ho iniziato un po' a preoccuparmi quando vedevo questa macchiolina crescere invece che decrescere. Chiaramente abbiamo interpellato la prima fonte di informazioni che solitamente noi interpelliamo. Abbiamo digitato su Google macchia rossa, bordo linguale, eccetera, eccetera. La prima parola che è comparsa, le prime parole che sono comparse, è stato tumore. Chiaramente io e mia moglie abbiamo subito messo da parte questa parola, non immaginando minimamente che potesse prendere spazio nella nostra vita una parola di questo tipo. Però chiaramente ho iniziato a fare esami di accertamento, mi hanno fatto una biopsia, risonanze, tutto quello che serviva per capire cosa fosse questa macchia. Insomma, il 4 di maggio questo primario ci fa accomodare e ci dice: guardate, esistono due tipi di tumori. Uno potremmo definirlo buono, nel senso che non porta alla morte e si può curare, possiamo intervenire. Un altro invece è cattivo, che possiamo, chiaramente dobbiamo intervenire anche in quei casi, però chiaramente è una patologia molto più pericolosa. Ecco, Nico, tu hai purtroppo un tumore cattivo ed è anche ad uno stadio abbastanza avanzato. Dobbiamo intervenire subito, perché è un tumore che cresce velocemente, abbastanza aggressivo, e quindi dobbiamo intervenire chirurgicamente, non ci sono altre strade. La chemio e la radio non avrebbe l'effetto che vorremmo, tu sei un paziente giovane, hai una prospettiva di vita lunga e quindi dobbiamo fare di tutto per salvarti la vita. Questo era il messaggio in sostanza. Allora, chiaramente vi lascio immaginare in quei momenti quello che può passare per la testa. Io sentivo la sua voce come se venisse da lontano, sentivo tutto ovattato in quel momento. Lui ha preso un foglio, è stato un medico davvero molto bravo, molto professionale. Dobbiamo pregare per i nostri medici, amen. Loro, credenti o no che siano, mettono a disposizione la loro professionalità, il loro tempo, la loro capacità per curare i nostri corpi. Noi dobbiamo pregare per loro e pregare anche che arrivino a conoscere il Signore. Sosteniamoli in preghiera. Mi ha fatto un disegnino di quello che sarebbe stato il mio intervento. Gli ho detto: guarda, io prenoto già per il 22 di maggio l'intervento. L'intervento consisterà in questo, questo e questo. Io non ci potevo credere perché mi stava parlando di un intervento molto invasivo e molto importante. Avrebbero dovuto asportarmi il 50% della mia lingua e tanto altro che non sto a descrivervi, perché questa mattina io non voglio rattristarvi. Questa è una mattina di gioia, perché io sono qui a testimoniarvi che Dio è buono. Amen. La mia preoccupazione, a parte insomma la percentuale di quanta possibilità di rimanere in vita avessi, ma la mia preoccupazione era, vi lascio immaginare, potrò cantare di nuovo? Togliere parte di una lingua a un cantante è come staccare un piede a un calciatore. Potrò cantare di nuovo? Questa era la mia domanda. In quel momento di dolore c'era una parola che rimbombava nella mia testa, nel mio cuore. Questa parola era Signore, Signore, Signore. E non era solo un grido di aiuto, era proprio un modo per dichiarare vita sulla morte. Insomma, io e mia moglie siamo rientrati a casa un po' storditi chiaramente da tutto questo. Questo signore, questo medico è stato molto bravo perché ci ha elencato una serie di medici che avrebbero potuto fare lo stesso tipo di intervento. Lui ha detto, guarda, non, hai tutto il diritto di sceglierti il medico che ti dovrà operare. Questi sono dei nomi che io ti consiglio. Fai la tua ricerca, comunque qui il tuo posto è prenotato per il 22 di maggio. Facci sapere. Avevamo una settimana di tempo, non di più. Io e mia moglie abbiamo scelto in particolar modo due istituti molto famosi a Milano. Siamo andati dal primo, professionisti di altissimo livello, però nel nostro cuore non sentivamo che era quella la situazione adatta per noi. Al secondo appuntamento abbiamo sentito una serenità soprannaturale che ci ha spinti a confermare che questo medico avrebbe dovuto fare questo intervento. Anche lui mi ha descritto l'intervento esattamente come il primo medico. La conferma poi l'abbiamo ricevuta nel momento in cui lui, guardando il referto di questo primo medico che mi ha visitato, fa: ah sì, io lo conosco, è stato un mio allievo. Quindi noi siamo capitati nelle mani del professore, del primo medico che mi ha visitato. Ci sentivamo sereni, ho detto ok, facciamo questo percorso con lui. E anche lui mi ha prenotato per il 22 di maggio, quindi da lì a poco io avrei dovuto subire questo intervento. La notizia dopo, nel momento in cui io l'ho condivisa a pochi intimi, quegli intimi sono diventati un po' di più, la notizia si è sparsa in un modo incredibile e abbiamo ricevuto tanto affetto, come vi ho detto anche all'inizio, da parte della Chiesa che ha pregato per noi. È stata una forza importante che ci ha sostenuti. E io ho sempre creduto che il Signore avrebbe potuto cancellarmi completamente questo tumore ancor prima di entrare in sala operatoria. Non ho mai dubitato. Io ogni mattina mi guardavo allo specchio, fiducioso che quella macchia poteva scomparire del tutto, ma ho conservato la pace fino all'ultimo, anche nel momento in cui non vedevo questa macchia scomparire. Ho sempre detto: Signore, io veramente mi abbandono a te, so che tu hai piani che vanno al di là di quello che io posso pensare e immaginare, credo che tu sei il Dio dei miracoli, ma credo che i tuoi piani sono così alti, alcune volte inafferrabili da comprendere con la nostra logica umana, che io riposo comunque nella tua volontà, in quello che tu vuoi fare. Questo l'ho fatto fino all'ultima mattina che ero lì in questa sala di ospedale, mi sono preparato per l'intervento. Le prime domande che facevo al Signore, potete immaginare, era perché. Tante persone utilizzano la lingua in modo sbagliato. C'è chi addirittura bestemmia il nome di Dio con la propria bocca. E io mi sono detto: Signore, ma io da quando ho 14 anni ho sempre lodato il tuo nome con il canto. Perché stai permettendo questo? La risposta non è arrivata, sono rimasto nel mio perché. Ero un po' arrabbiato, ero sofferente, non ho perso la fede in quel tempo, ma ero sofferente perché non riuscivo a comprendere come mai dovessi passare da questa prova così dura. Il Signore però non ha mancato a parlare a me e a mia moglie quando è cambiata la nostra domanda e abbiamo iniziato davanti a Dio a porre un'altra domanda che è stata: Signore, cosa vuoi che io faccia in questo tempo? Cosa vuoi che io faccia in questo tempo? Non so cosa fare. E il Signore, attraverso la sua parola e attraverso anche l'incoraggiamento e l'affetto di tanti fratelli, abbiamo messo insieme tutto quello che avevamo ricevuto e da questo puzzle meraviglioso è uscita una parola che Dio ci stava dicendo. E questa parola era: fidatevi di me. Fidatevi di me. Questo è quello che Dio ci ha detto, niente di più e niente di meno. Fidatevi di me. E noi ci siamo fidati di Lui. Ed è entrata dentro di noi una pace straordinaria che non possiamo descrivere a parole. Ci siamo sentiti sereni, che qualsiasi sarebbe stato l'esito di tutto, noi eravamo in mani sicure, le mani del nostro Padre. Il 22 di maggio sono entrato in sala operatoria. Ricordo che mentre ero in questo letto che mi portava nella sala, quei corridoi erano interminabili, non finivano più, e vedevo queste luci davanti ai miei occhi e cantavo. Cantavo non ad alta voce, cantavo dentro il mio cuore, cantavo un brano che ho scritto qualche tempo fa, che poi in realtà non è mio perché sono le parole del salmista, cantavo questo brano, il Salmo 27. Alcune di queste parole dicono: l'Eterno è la mia luce, la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura, eccetera, eccetera. Cantavo questo brano, sono entrato in sala operatoria, sereno, sapendo che la mia vita era nelle sue mani. Mi fanno sdraiare su questo letto, devo dire è abbastanza duro, mi legano con queste cinghie in modo abbastanza forte e faceva tanto freddo in quella stanza e c'erano tante persone tra medici, infermieri, primari, chirurghi, eccetera, eccetera. Sentivo tanto rumore di ferri che si muovevano ed ero un po' teso chiaramente, ma c'era questa ragazza di Bari, l'anestesista che mi ha seguito, che con le sue mani sulle spalle semplicemente mi ha detto: Nico, cosa vuoi che facciamo per te ora? Ma io ero lì legato, non è che potevo avrei potuto fare chissà quali richieste, però ho detto: sì, una cosa vorrei farla, vorrei pregare. E questa ragazza ha fermato tutti in quella sala: fermi tutti, Nicola vuole pregare. E allora ricordo che tutti si sono fermati, io ho iniziato a pregare, a ringraziare il Signore, a pregare per i medici. E mentre pregavo per i medici, io ricordo che mi sono addormentato. Quindi mi hanno sedato mentre pregavo ed è stato il modo migliore per affrontare quella giornata così impegnativa e così particolare. L'intervento è durato poco più di 8 ore, è stato particolare. C'è stata qualche piccola complicazione, ma grazie a Dio è andato tutto bene. Dopo sono stato 2 settimane in degenza in ospedale, sono state 2 settimane abbastanza toste, io ero completamente intubato, non potevo parlare, niente, insomma ero immobilizzato a letto. E, pensate, no? Io ho sempre visto negli attacchi, sapete, noi crediamo in un mondo spirituale, no? Siamo credenti, crediamo nella parola di Dio, crediamo che Dio e il suo regno siano il bene e che poi ci sia in opposizione il male, guidato dal nemico, guidato da quell'angelo che si è ribellato a Dio e ha deciso di fare di testa sua. E quando penso, no, al nemico che ci attacca, perché è lui che ci attacca, non è il Signore che manda tutto quello che spesso noi viviamo di difficile, il Signore permette, perché ha i suoi piani, e vedremo qualcosa stamattina velocemente insieme, ma il nemico può solo che rubare e distruggere, come è scritto in Giovanni, al capitolo 10, verso 10. Il nemico viene se non per rubare, distruggere e uccidere, ma io, Gesù, sono venuto per dare vita e darla in abbondanza. E quando penso a questo, penso che lui veramente ha voluto rubarmi qualcosa di prezioso. Mi ha rubato, o pensava di rubarmi, la possibilità di parlare e cantare di nuovo, ma mi ha rubato anche la possibilità di suonare, perché i medici hanno dovuto prendere una parte del mio braccio per fare la ricostruzione plastica della parte della lingua che mi hanno tolto. Quindi io avevo il mio braccio sinistro completamente immobilizzato per diverso tempo, quindi io non ho potuto neanche suonare. Io dentro di me dicevo: Signore, permettimi almeno di continuare a suonare, voglio almeno continuare a fare questo, perché chiaramente, anche se i medici mi avevano rasserenato, però sapete, quando vi aprono un braccio non si sa mai il bisturi dove va a finire, bastava toccare qualche tendine che qualche mio dito avrebbe potuto perdere la sua funzione, questo avrebbe potuto compromettere anche la possibilità di suonare. Quindi pensavo, no, dicevo al nemico che ruba, e lui mi ha rubato le uniche due cose che mi permettevano di fare la cosa che più amo fare: cantare e suonare per il mio Dio. Ma il Signore soffia vita, e lui è venuto per portare vita in abbondanza, e lui ha portato qualcosa di straordinario nella mia vita che sto testimoniando. Dopo questo è seguito un percorso a casa, i medici hanno trovato dall'esame istologico degli linfonodipresi, quindi ho dovuto fare una terapia lunghissima di radioterapia e qualche ciclo di chemio. Esattamente l'anno scorso, in questo momento, io ero in terapia facendo radio e chemio, andavamo a Milano ogni giorno. Quindi io e mia moglie possiamo dire con assoluta franchezza che per noi questo è un agosto da Dio, assolutamente. Perché ci stiamo riposando e stiamo gustando la bontà di Dio. Ma sapete, anche l'anno scorso abbiamo vissuto un agosto da Dio. È stata dura, ma abbiamo sperimentato in modo soprannaturale la presenza di Dio nella nostra vita. 30 erano i cicli di radioterapia. Brevemente vi dico, la radio consiste in una seduta che dura circa 10-15 minuti. C'è un macchinario che va a irradiare per bruciare la parte colpita. Nel mio caso avevo una maschera che premeva sul mio viso ed ero lì un quarto d'ora sotto questo macchinario. L'ho fatto per 30 volte. E dentro di me mi sono detto: io non posso sprecare questi 15 minuti pensando alla terapia e alla malattia. Io voglio che in quei 15 minuti io possa connettermi con Dio e voglio fare qualcosa di speciale. E il Signore ha messo nel mio cuore il desiderio di recitare e pregare il Salmo 23 per tutto il tempo della terapia. E quindi io recitavo il Salmo 23 tutti questi 15 minuti per tutti i 30 giorni di terapia. E sapete, vi racconto questo semplicemente perché ho avuto conferma nel mio cuore e in base alla mia testimonianza che la parola di Dio non soltanto ristora il nostro corpo, il nostro cuore, il nostro spirito, ma è uno scudo per il nostro corpo, vero e proprio. I medici mi avevano dato una serie di indicazioni prima della terapia, dicendomi che avrei avuto diversi problemi o effetti dovuti alla radioterapia, molto molto duri. Ma gli infermieri erano abbastanza stupiti e contenti di vedermi alla fine del percorso che stavo bene. E quindi io ho testimoniato della bontà di Dio e testimonio a voi che quella preghiera, quel Salmo 23 recitato mentre pregavo il Salmo 23, facevo mie le parole di Davide, quelle parole sono state uno scudo intorno al mio corpo. Dopo è seguito un percorso di recupero, di fisioterapia, logopedia, ho fatto molta logopedia, ho iniziato anche a gennaio a fare qualche lezione di canto, insomma non mi sono arreso, ho detto: Signore, il mio canto forse sarà un po' diverso, ma io ci voglio provare. E il percorso è andato molto bene, il percorso di logopedia è andato molto bene, come sentite riesco a comunicare abbastanza bene. Ho la R un po' moscia, vabbè, pazienza, insomma. Mi hanno detto alcuni che mi fa un po' aristocratico e io, vabbè, lo prendo come un complimento. anche se insomma non è che mi entusiasmi molto, però va bene. Ho dovuto chiaramente familiarizzare con una nuova identità vocale, sia per il parlato che per il canto, ci sto ancora lavorando. Però sono qui per testimoniarvi che nonostante tutto, anche se sono un po' più rotto di prima, desidero continuare a testimoniare e onorare il mio Signore, il nostro Signore, con la voce, con le parole, ma anche con il canto. Non sono ancora del tutto pronto, ma sto lavorando per questo e a breve sicuramente Dio mi darà grazia di riprendere, sono certo di questo. Sto lavorando molto, registrandomi nel mio studio e sto vedendo dei piccoli graduali miglioramenti. Credo che abbiamo un dovere come figli di Dio, che è quello di non perdere tempo. Abbiamo un messaggio così potente da condividere con tante persone che stanno aspettando la speranza e la vita in Cristo Gesù, che dobbiamo, anche se abbiamo magari un corpo un po' più rotto, anche se magari non riusciamo più in modo perfetto come prima a svolgere certe mansioni, ma abbiamo un messaggio così potente che dobbiamo comunque continuare a condividerlo. Ricordo Mosè quando davanti all'incarico incredibile che Dio aveva dato di condurre il popolo, gli ha detto: Eterno, ma io non so parlare. Si suppone che avesse dei problemi, no? Che non riuscisse a parlare bene o avesse problemi di articolazioni o di balbuzie, comunque aveva difficoltà Mosè. E un po' ho capito quello che lui insomma stava vivendo in quel momento. Immaginate, Mosè non aveva microfoni, non aveva nulla che potesse aiutarlo e probabilmente sentiva che questo suo difetto nel parlare avrebbe potuto compromettere la sua autorevolezza. Ma il Signore gli ha detto: va, non è la tua bocca, il tuo modo di parlare che fa la differenza, ma è la potenza della mia parola che passa attraverso te. E io ho scelto te come canale, a prescindere dalla perfezione o imperfezione che può avere la tua bocca. Quindi, fratello, sorella, dedicati all'opera di Dio, anche se ti senti imperfetto. Anzi, se ti senti tale, gusterai ancora di più la gloria di Dio, perché vedrai manifestata la sua guida dentro di te, capirai che non è per i nostri meriti, ma il suo spirito che soffia dentro di noi. Amen. C'è un verso che ha accompagnato me e mia moglie. Questo verso è in Isaia, al capitolo 43, verso 2. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Che bello questo incoraggiamento che Dio rivolge al profeta Isaia per il popolo di Israele e che oggi noi facciamo nostro. Questo verso ci incoraggia, può essere applicato in tante aree della nostra vita. Sicuramente ciascuno di noi è passato o sta passando attraverso una prova. Se lasciassi questo microfono a ciascuno di voi avreste una storia da raccontare, sono certo. Quindi è qualcosa che ci accomuna. E il fuoco, qui il profeta parla di una fiamma, no? Quando si passa attraverso il fuoco. Il fuoco spesso nella Bibbia è figura di Dio stesso, no? Sta scritto che Dio è un fuoco consumante ed è geloso del suo popolo. E il fuoco spesso però anche figura di un momento difficile, di una stagione, di una prova. C'è una storia straordinaria che preferisco raccontarvi a voce. Il capitolo è un po' lungo, non voglio dilungarmi troppo questa mattina, però vi racconto brevemente. È una storia che è scritta nel libro di Daniele, al capitolo 3, dal verso 13 al 30. In sostanza c'erano tre amici di Daniele. Questi tre amici si chiamavano Shadrach, Meshach e Abednego. Questi tre ragazzi, a un certo punto della loro vita, mentre erano al servizio del re babilonese, si ritrovano ad affrontare una grande sfida, una grande scelta. Questo re aveva fatto costruire un idolo molto grande, una grande statua, e aveva chiesto a tutti di inchinarsi davanti a questa statua. Questi tre ragazzi, che erano ragazzi che amavano Dio, il Dio di Israele, non vollero inchinarsi. Dissero al re: Guarda, noi ti rispettiamo, siamo qui al tuo servizio, ma questo proprio non ce lo puoi chiedere, perché noi non ci inchiniamo a una statua, noi abbiamo il nostro Dio. Questo re si è arrabbiato molto, non ha assolutamente accettato questa scelta e si è arrabbiato così tanto che non solo ha ordinato ai suoi servi di portare questi tre ragazzi ad una vera e propria pena di morte, perché li voleva far bruciare in una fornace ardente, ma ha chiesto ai suoi servi di alimentare la fiamma di questa fornace e farla diventare 7 volte più forte di quello che sarebbe stato già sufficiente per uccidere questi tre ragazzi. Insomma, la storia ci racconta, ed è una storia vera, sapete come nei film, quando poi alla fine è scritto storia vera, ecco, questa è una storia vera, eh? Stiamo parlando di una storia vera. In questa storia, questi tre ragazzi in silenzio affrontano questa tremenda prova e loro rispondono in questo modo, questo ve lo voglio leggere perché è emblematico, credo che sia la risposta che ogni credente debba fare propria. Al verso 17, ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Verso 18, sentite qui la profondità e la maturità di questi uomini, ragazzi, ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. In sostanza, questi ragazzi stavano dicendo un po' quello che vi raccontavo io quando mi sono ritrovato davanti a questa prova particolare che ha colpito il mio corpo. Loro erano certi che Dio avrebbe potuto salvarli, non avevano dubbi della potenza di Dio, ma hanno anche voluto sottolineare, anche se questo non dovesse accadere, noi tre moriremo lì dentro. Sappi che noi comunque non ci inchineremo davanti a questo idolo, perché noi serviamo e amiamo il nostro Dio. Questi ragazzi non si sono arresi. La storia ci racconta che questi ragazzi sono entrati nella fornace e da un certo punto il re è stupito. Pensate, la storia ci racconta che le fiamme erano così potenti che i servi che hanno condotto questi tre ragazzi nella fornace sono stati colpiti e uccisi. Questi ragazzi vengono invece buttati dentro una fornace ardente. E il re rimane stupito perché a un certo punto vede non solo questi tre ragazzi muoversi in mezzo alle fiamme, ma vedono una quarta figura. E dice il re, ma io vedo una quarta figura come se fosse un figlio di Dio. Insomma, questi ragazzi escono dalla fornace senza neanche un graffio. Dio ha manifestato la sua gloria, questo re rimane completamente scioccato come sarebbe rimasto scioccato ogni essere umano sulla faccia della terra e questo re non solo onora i ragazzi per la loro fede, ma onora il loro Dio. Onora il loro Dio. L'obiettivo dei miracoli che Dio fa nella nostra vita non è soltanto quello di farci uscire dalla fornace, che è già bello, ma è quello di onorare Dio, è quello di onorare Dio. Quanti, ci racconta il Vangelo, davanti a un miracolo che Gesù ha fatto, se ne sono andati senza neanche ringraziare? Quanti invece si sono fermati ad adorare Gesù? Ecco, il miracolo deve produrre questo, dare gloria a Dio. E questi ragazzi lo hanno fatto, e il nome di Dio già attraverso Daniele stava diventando meraviglioso a quel tempo, ma anche attraverso questi tre ragazzi. Questi tre ragazzi si sono trovati davanti ad una sfida, davanti ad una scelta. Quando arriva la prova, che cosa facciamo noi? Quando viviamo momenti di prova, ci sono tanti stati d'animo che entrano dentro il nostro cuore, no? C'è la tristezza, c'è la paura, ma ce n'è uno che è particolare, che è la rabbia. Ci arrabbiamo. E noi abbiamo due scelte, soprattutto per noi credenti, perché quando viviamo la prova, la nostra fede prima di tutto viene messa alla prova. Abbiamo due scelte, arrabbiarci con Dio e con il mondo intero o arrabbiarci con quel nemico che abbiamo detto che ha lo scopo di rubare, distruggere, uccidere. Alcune volte ci arrabbiamo con le persone sbagliate. noi dobbiamo imparare ad arrabbiarci con colui che ruba, distrugge e uccide. E questo significa abbandonarci nelle mani di Dio e, come ho detto prima, fidarci di Lui. C'è un passo, alcuni passi, ve ne leggo alcuni velocemente, straordinari. Mosè davanti al popolo di Israele che ricorda i comandi che Dio ha dato al popolo e ricorda questo, Deuteronomio 4 verso 12: l'Eterno vi parlò dal mezzo del fuoco, voi udiste il suono delle parole ma non vedeste alcuna figura, udiste solo la voce. Deuteronomio 4, 35, 36: tutto questo ti è stato mostrato affinché riconosca che l'Eterno è Dio e che non vi è alcun altro all'infuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto dire la sua voce per ammaestrarti e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e hai udito le sue parole in mezzo al fuoco. E diceste: ecco l'Eterno, Deuteronomio 5, 24, il nostro Dio ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua grandezza e noi abbiamo udito la sua voce di mezzo al fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo rimanere in vita. Nel fuoco non soltanto sperimentiamo la bontà di Dio, ma nel fuoco noi possiamo e dobbiamo imparare ad ascoltare la sua voce. Molto spesso quando siamo nel fuoco parliamo, gridiamo ed è normale, siamo in difficoltà. A chi potremmo chiedere aiuto se non a Dio stesso? Ma io ho imparato che il Signore inizia a parlarci anche in quei momenti, proprio quando tu inizi a stare un po' in silenzio e ad ascoltare la sua voce che parla in mezzo al fuoco. E nel fuoco è Dio che parla, non più noi. Quando usciamo dal fuoco illesi, quel fuoco ci purifica e ci fa entrare in una nuova dimensione. Che cos'è la purificazione se non togliere ciò che non ci appartiene, ciò che ci sporca, per far emergere ciò che più di valore c'è nella nostra vita da mostrare? Abbiamo cantato: sono scelto e credo a quello che Dio dice di me. Che cosa Dio dice di te? Cosa Dio dice di te? Dio dice di te che sei prezioso. Dio dice di te che tu hai un valore incredibile. Dio dice di te: quando attraversi il fuoco, sappi che io sono con te, ma non fermarti a guardare quelle prove solo come un momento di dolore. Guarda quelle prove come un fuoco che brucia tutto quello che non serve, tutto quello che nasconde il valore che c'è dentro di te. Quel valore che hai solo tu. Signore, io sono scelto e credo a quello che tu dici di me. E tu dici che io sono prezioso e un valore. Alcune volte dobbiamo solo stare in silenzio. Vi voglio lasciare con questa illustrazione, questa immagine. Conosciamo tutti, no? L'opera di Michelangelo, il David di Michelangelo. Lui ha scolpito questa scultura bellissima, imponente, quando aveva tra i 25 e i 27 anni, era un ragazzo. E lui ha sempre in qualche modo affermato che davanti ad una scultura o davanti ad un'opera, davanti a un pezzo di marmo, che la figura è imprigionata nel marmo. Cioè, in realtà è come se lui volesse dire: il Davide era già lì dentro, era lì, in quel pezzo di marmo, in quel rettangolo enorme, in quel parallelepipedo di marmo. Io ho avuto soltanto l'abilità di togliere quello che non serviva per far emergere quello che c'era dentro. È un'immagine straordinaria che mi parla proprio di questo. Alcune volte le nostre scelte, le nostre paure, il nostro orgoglio ci fa essere quel pezzo di marmo dritto, squadrato, senza forma, che sembra che non voglia dire niente. ma quando ci facciamo lavorare dal Signore, quando permettiamo anche alle prove della vita di permetterci di purificare, di togliere, viene fuori qualcosa di straordinario che Dio aveva già nella sua mente. Dobbiamo imparare ad ascoltare Dio nel fuoco. Non è semplice, ma è possibile. C'è un verso in Deuteronomio, sempre al capitolo 3, verso 26, che sottolinea un po' la natura di Dio in questo. Sta scritto: ma l'Eterno si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Così l'Eterno mi disse: basta così, non parlarmi più di questa cosa. Quanto mi piace questa frase, mi ha colpito. Alcune volte noi costruiamo la nostra immagine di Dio, no? È chiaro che la parola di Dio ci aiuta a conoscere Dio, ma alcune volte noi ci immaginiamo Dio un po', no? In base alle nostre conoscenze ed esperienze. E qui la parola mi mostra un Dio così pratico, così vicino a noi, così, con un linguaggio così semplice. Non è quel Dio che ci ascolta, sempre paziente, che ci fa parlare, che ci dice sempre sì, va bene. No, qui Dio dice basta, non parlarmi più di questa cosa. In sostanza Dio stava dicendo a Mosè: mi è stufato, basta. Ecco, io ho dovuto un po' vivere anch'io questa cosa. Ho dovuto anche io ascoltare Dio che mi diceva: basta, fidati di me, basta dirmi sempre la stessa cosa. Lo so che il fuoco è duro, brucia, ma fidati di me, io ti parlerò in mezzo al fuoco. Quando si esce dal fuoco, alcune volte rimane qualche ferita. E io purtroppo qualche cicatrice ce l'ho e me la porterò per il resto della mia vita. E queste cicatrici mi ricorderanno ogni volta che le vedo quello che ho vissuto. È inevitabile. Se qualcuno di voi ha una piccola o grande cicatrice, quando la vede si ricorda inevitabilmente di quello che ha vissuto. E io quando mi guardo vedo sì il dolore di quello che ho vissuto l'anno scorso, ma vedo anche il segno dell'amore di Dio nella mia vita. E ho pensato a Gesù. Gesù, quando è risorto e si è mostrato con un corpo nuovo e glorificato, quel corpo, anche se nuovo e glorificato, aveva comunque i segni della croce. Aveva le ferite. Perché? Gesù avrebbe potuto mostrarsi ai suoi discepoli con un corpo completamente sano, senza ferite, senza segni. Per quale motivo? Ognuno di noi potrebbe pensare ad un motivo, no? Uno di questi potrebbe essere, a me piace pensare questo, che Dio ha voluto lasciare quei segni perché erano il segno della sua gloria, erano il segno del suo amore per l'umanità. Non erano soltanto il segno della sofferenza, Padre allontana da me questo calice, ma erano anche il segno dell'ubbidienza al piano meraviglioso di Dio. Ma non la mia volontà, Padre, la tua sia fatta. Quindi quando guardiamo le nostre cicatrici, guardiamole nella prospettiva del regno di Dio e del piano che Dio ha per te e per me. Non potete immaginare quante persone mi hanno scritto in questo anno e quante persone in modo pratico ho potuto anche incoraggiare e aiutare, perché ero già passato da quel fuoco e ho potuto raccontare la mia storia. Questo è uno dei piccoli motivi o possibili motivi che potrebbero giustificare anche una ferita o delle ferite. In conclusione, abbiamo iniziato con Isaia 43 verso 2 e voglio concludere con Isaia 43 verso 19. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Sì. Aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Dio è straordinario, Lui non soltanto ci permette di vivere una prova, ma Lui trasforma un dolore in gioia. Lui trasforma, come dice il profeta Geremia, la nostra sofferenza in danza. Il Signore trasforma. Paolo poi riprende questo concetto in Romani quando dice: tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Che non significa che la prova non la attraverserai, significa che tutto coopera al bene. Che qualsiasi sarà il risultato, come hanno detto quei tre ragazzi davanti al re, qualsiasi sia il risultato, io sono più che vincitore. Abbiamo detto, siamo credenti, crediamo in una realtà spirituale, crediamo in una vita qui sulla terra benedetta da Dio, ma crediamo in particolare in una vita eterna che vivremo un giorno. Crediamo che siamo di passaggio. E non vi nascondo che ho pensato spesso all'eternità in questo tempo, ma l'ho pensato con un cuore pieno di pace e di speranza, non con tristezza. Ho pensato che io sono più che vincitore sempre, perché anche nella peggiore delle ipotesi, come hanno detto questi tre ragazzi, anche se Dio non lo facesse, io andrò tra le braccia del Padre. Io continuerò a stare con il mio Dio. Io non mi inchinerò davanti al dolore di una prova. Io mi voglio inchinare davanti al Re del Cielo. Il Signore non solo ci protegge dal fuoco, ma fa una cosa nuova affinché possiamo testimoniare la sua bontà e possiamo essere perfetti nei suoi piani. Il mio incoraggiamento questa sera è chiaramente a non arrendervi davanti ad una prova, ma soprattutto ad imparare ogni giorno, qualsiasi sia la stagione che si sta attraversando, imparare ad ascoltare Dio in mezzo al fuoco, perché Dio parla. Alcune volte non lo sentiamo perché gridiamo troppo forte, ma il Signore ci sta in qualche modo dicendo: basta, basta, non dirmi sempre la stessa cosa, ascoltami, io ti parlerò in mezzo al fuoco. E io e mia moglie ci stiamo affacciando a vivere questa nuova stagione che sta germogliando nella nostra vita. E quando riprenderò a cantare, quella sarà la mia bandiera di testimonianza, perché quella voce rotta non sarà soltanto un suono un po' più brutto di prima, sarà un suono, un segno della mia vittoria in Cristo Gesù. Che la tua ferita, il tuo dolore possa essere quel segno di vittoria per testimoniare la bontà di Dio nella tua vita. Amen. Alleluia. Dio è buono, Dio è buono. Io non smetterò mai di testimoniarlo. Forse la vita ci preserverà altre prove, non lo so. È la vita. Ma il punto non è quante prove viviamo, il punto è come reagiamo a quella prova. Cosa facciamo nel fuoco? Quei tre ragazzi sono di ispirazione. Ma anche se Dio non lo facesse, noi non ci inchineremo. Non arrendiamoci, non voltiamo le spalle a Dio al primo problema. Dio è con noi sempre, anche quando non comprendiamo. Io mi sono sentito perso, non vedevo più futuro, non ho lavorato per un anno, non avevo più futuro lavorativo, professionale, ministeriale, non vedevo più niente davanti a me. Dicevo: Signore, cosa devo fare? Una volta confessavo al pastore Mirko mentre facevamo una passeggiata sul lungo lago di Varese che ogni tanto una mattina mi svegliavo col camice da pizzaiolo, una mattina mi svegliavo col camice di un'altra professione, con tutto il rispetto per questi lavori meravigliosi, ma quello che volevo dire al pastore Mirko è che iniziavo a ipotizzare la mia vita, a fare qualcos'altro, perché non riuscivo ancora a vedere che potevo riprendere. E non ero triste, ero soltanto così pensieroso. Ma il Signore ha provveduto. Il Signore in qualche modo ha voluto incoraggiarmi attraverso tante cose. Chiaramente il tempo a disposizione è già scaduto abbondantemente, mi devo fermare. Ma sono così tante le cose che vorrei condividervi sulla bontà di Dio. Ma posso dirvi che davvero si sta facendo una stagione nuova. posso testimoniare che Dio è buono sempre, anche nelle situazioni più buie, anche come dice il salmista, nella valle dell'ombra della morte. Tu sei con me, tu sei con me. Se sei nella valle dell'ombra della morte, e io la morte vi posso dire che l'ho vista in faccia, sappi che Dio è sempre con te. Ti devi solo fidare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ti devi solo fidare di Lui. Qualsiasi sia quello che accadrà, il Signore è buono, la sua benignità, dice la parola, dura in eterno, e Lui non cambia mai. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E spero tanto la prossima volta di non solo testimoniare con la mia R moscia parlando, ma di cantare anche con la mia R moscia e di lodare Dio insieme, testimoniando che Lui è il nostro Signore e non ci lascia e non ci abbandona mai. Da chi andremo, ha detto Pietro, lontani da te, Gesù? Solo tu hai parole di vita eterna. Rimaniamo aggrappati a Lui. Ricordo, e concludo davvero, ricordo pastore Enzo tanto tempo fa mi disse una frase, probabilmente l'aveva presa da qualche parte o era sua, non ricordo, ma mi colpì molto da adolescente. Mi disse: sai Nico, spesso si pensa che nello sport i campioni sono quelli che vincono sempre, che alzano sempre le coppe, che indossano sempre le medaglie. In qualche modo è vero, perché mostrano di aver ottenuto dei risultati. Ma lui mi diceva: il vero campione, però, proprio quello tosto, il vero campione, non è quello che vince sempre. Ogni tanto vince, ma non è quello che vince sempre. È quello che non si arrende mai. E io ci credo fermamente in questo. Alcune volte è proprio dura. Ma non arrendiamoci, teniamo duro. Il Signore è buono e ci darà la forza soprannaturale per affrontare ogni prova e ogni difficoltà in mezzo al fuoco. Amen. Amen. Dio ci benedica. Amen. Passato. Vogliamo alzarci in piedi. Abbiamo un Dio che è buono sempre e vorrei che insieme pregassimo. Nico ha detto che nella preghiera c'è la manifestazione di empatia più grande, ma c'è qualcosa di prezioso, c'è il fatto che insieme mettiamo in comune, a disposizione gli uni degli altri, l'arma più vincente che abbiamo come cristiani. E forse questa mattina tu ti ritrovi in una valle dell'ombra della morte, ti ritrovi in una stagione difficile, magari non come quella di Nico, ma ti sei rivisto perché stai soffrendo, perché non ti piace quello che stai vivendo. Forse sei arrabbiato, forse sei disorientato. Non vedi dov'è Dio in tutto questo. Una cosa possiamo farla, e la possiamo fare molto bene come Chiesa, ed è pregare gli uni per gli altri. Quindi io voglio invitare tutti noi a chiudere i nostri occhi. E ti chiedo di essere molto sincero questa mattina. Ti chiedo di essere molto aperto, non solo nei confronti della Chiesa, di me, di Nico che ti vediamo, ma nei confronti di Dio, perché è Lui che ti vede. E voglio chiedere se tu questa mattina vuoi il supporto in preghiera della Chiesa per affrontare quello che forse tu solo sai che stai affrontando, poche altre persone sanno che stai affrontando e che Dio certamente sa che stai affrontando. Io voglio chiederti, dovunque ti trovi, di alzare la tua mano affinché noi possiamo pregare per te. Chiederò a Nico di pregare per ogni persona che sinceramente questa mattina dice: sì, io ho bisogno di preghiera, io ho bisogno del supporto della Chiesa in quello che sto attraversando, non lo voglio attraversare da solo o da sola. Anche a Mottola, se tu hai questo bisogno, forse non abbiamo la possibilità di vederti, ma Dio ti vede. Alza ora la tua mano e vogliamo pregare e intercedere. Se non stai alzando la tua mano, puoi cominciare a pregare per queste persone. Vedo tante mani che si stanno alzando. Mentre manteniamo nostra attenzione su Dio con gli occhi chiusi, preghiamo insieme. Nico. Padre, Re del cielo e della terra, questa mattina veniamo davanti a te con un cuore grato, perché sei il nostro Dio, perché sei il Re potente che siede sul trono. E veniamo anche con un cuore pieno di fiducia davanti a questo tuo grande e meraviglioso trono, consapevoli che tu sei il Dio dell'impossibile. Tu sei il Dio dell'impossibile. Tu sei il Signore. Tu regni. Hai sempre regnato e sempre regnerai. Davanti a te, Signore, queste vite preziose che hanno alzato la mano, che stanno vivendo un momento difficile, che sono forse disorientate dal dolore o dalla sofferenza, dalle cose illogiche che alcune volte viviamo nella nostra vita o poco comprensibili. Padre, io ti prego che il tuo Spirito Santo possa soffiare vita e speranza nei cuori di questi cari fratelli, ricordando la tua parola. Tu dici che quando sono debole, allora io sono forte, perché troviamo quella forza in te. Non è per quello che noi possiamo fare, è ben poco quello che noi possiamo fare, ma è per quella forza soprannaturale che tu soffi in noi attraverso il tuo Spirito. Spirito di Dio, soffia nuova vita nel cuore dei miei fratelli. Soffia nuove forze nel cuore dei miei fratelli. Rafforza il cuore stanco, come abbiamo cantato questa mattina. E ti prego che la tua pace, Signore, possa scendere nei loro cuori, come quei bambini che tu hai citato nella tua parola, Signore. Ci abbandoniamo tra le tue braccia, quei bambini che si accostano a te, semplici, totalmente dipendenti da te. Ecco, tu hai detto che questi bimbi entreranno nel tuo regno, e noi siamo parte del tuo regno, Signore. Tu sei il Dio dell'impossibile. Soffia, Spirito Santo. Ti chiediamo ogni cosa nel nome glorioso, meraviglioso, potente, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Alleluia.